It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce. E mentre nella fabbrica di polli le norme igieniche vengono sistematicamente violate, K e Drago rischiano una crisi di panico. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. K, che ora è? È mezzanotte. Mezzanotte? Se ci penso mi cresce l'ansia. Ma se pensi a cosa? Al fatto che è sempre mezzanotte. Ma Drago, tu sei troppo impressionabile, non è niente, è solo un'impressione. Ma come un'impressione? Ma sì, un'impressione, più o meno come un sogno. Ah, sì, sì. La vita è sogno, y esta fabbrica es un sueño también. Siamo semplicemente in una fase di... stallo temporale. Ho capito, stallo temporale, ma io non ci posso fare niente. Anzi, sai cosa faccio? Cosa fai? Faccio la crisi di panico. Don't panic. Ma no, Drago, ma niente crisi di panico. Devi solo prendere anche tu la paroxetina. Ah, dici? Ma certo, Drago, prendi la paroxetina e tutto ti sembrerà più facile. Meglio della New Age, la paroxetina. Entra a far parte del circolo esclusivo dei consumatori di paroxetina. Paroxetina Club, un ambiente esclusivo in cui i problemi vengono attutiti. Attutiti. Attutiti. Vuoi essere anche tu attutito? Attutito. Attutito. Attutito. Attutito. Attutito. Una condizione invidiabile. Attutito. Attutito. Attutito. Chi non vorrebbe esserlo? Attutito. Attutito. Attutito. Inibizione. Selezione. Ricaptazione. Le tre condizioni indispensabili all'esclusività del Paroxetina Club. Se per la città incontri persone raggianti sotto la sciarpa e i cappelli, sappi che quelli sono i ragazzi del Attutito. Paroxetina Club. Attutito. Cucamonga, California. La vita è dura, fa paura, la mattina Paroxetina. Inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina paroxetina. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli. Drago, stai calmo. No, non riesco. Qui si sta da mezzanotte a mezzanotte. No, no. Non c'è soluzione, è inutile che t'angosci. Ma è sempre mezzanotte. Poi da mezzanotte a mezzanotte cos'è? Da casello a casello. Oppure da castello a castello. Il principe Carlo dice sempre da castello a castello. 10 giorni a cavallo, da castello a castello. A cavallo. Ho capito, capito. A cavallo, capito. A cavallo. A cavallo, cavallo. Sì, cavallo, Drago, a cavallo. Cavallo! Il mio regno per un cavallo! Devo andare a Cucamonga! A cavallo! A horse! interrompiamo la trasmissione per annunciare che il colonnello Unghiute, a capo di 25 mercenari belgi, ha rovesciato il governo e ha preso il potere. Unghiute, appena insediato, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Unghiute governa tutto, ingoia tutto, colonnello Unghiute! La fabbrica di polli. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono l'amministratore delegato. Amministratore delegato, come va? No, lasciate perdere, quell'imbecille di Tribbia, l'autista, ne ha combinata una delle sue. Stavo parlando al telefono, è lui che si picca di poter essere un amministratore delegato, si ficcava dentro nella conversazione, mi dava i consigli, mi diceva dica questo, faccia così, faccia cos'ha, è arrivato al casello, ha sfasciato la sbarra, non si è fermato. Ma come, non aveva il telepass? No, gliel'ho tolto perché lo usava per portare la famiglia in vacanza. Casellante sempre triste, nel tuo cubo di frontiera, quante macchine avrai visto da mattina fino a sera? Casellante, sei annoiato, non mi degni di uno sguardo. Tu ti sei accorto che ho pagato mentre guardi e riguardi la TV. Casellante, adesso ascolta Radio 3, che stanotte si parla anche di te. Casellante, non è vero che sei trasparente. Casellante, Casellante, sei importante. Shh, Drago, Coz, sta zitto un attimo. Magari dice qualcosa sul colonnello Unghiute, sul golpe, se parli in continuazione. Scusa, K, se dice lineare Verstärkung, come fa a dire anche colonnello Unghiute? Dice lineare Verstärkung, colonnello Unghiute. Lineare Verstärkung, colonnello Unghiute? Ma tu ti stai rendendo conto delle frasi che pronunci? Cioè, tu ti sei fermato un attimo a pensare... Ho 36 anni, quasi 37. Una vita piena di responsabilità, di valori sinceri, di tutte quelle balle lì. E mi guadagno da vivere dicendo frasi come lineare Verstärkung colonnello Unghiute? Ma ti sei fermato a pensarci? Ma veramente è soltanto quello che mi sembrava dicesse l'altoparlante. Shh, ecco. No, ma come? Zitto, zitto! Vedi? Vabbè, colonnello Unghiute. Vabbè, ma alla fine del colonnello Unghiute e del golpe a noi cosa interessa? Scusa, qui alla fine siamo al sicuro, K. È vero, siamo al sicuro. Hai notato, quando ci sentiamo rassicurati dalla fabbrica di polli, ci esce fuori questo... Sì, l'ho notato. Che ora è? It is later than you think. Che cosa succederà adesso? Il golpe del colonnello Unghiute metterà a rischio il tran tran e la fetida fabbrica di polli? E che effetto avrà questo golpe sulla tranquilla cittadina di Cucamonga, in California? Se volete saperlo, dovete sintonizzarvi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo unghiutissimo allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar Lumen.